America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale per il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Barack Obama. The President of the United States. Il leggendario usciere del Parlamento, della Camera, come avete sentito, ha introdotto il presidente degli Stati Uniti davanti al Parlamento, riunito in una solenne sessione plenaria. La grande liturgia della democrazia americana, il discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente Barack Obama ieri notte ha pronunciato un discorso che, secondo alcuni, per certi versi può essere storico, perché riafferma, nel momento in cui Cina ed India emergono, nel momento in cui la dinamica della globalizzazione sembra chiudere in un angolo gli Stati Uniti, nel momento in cui questo paese è oberato da un debito enorme e da un disavanzo pubblico che supera il 10%, ebbene in questo momento difficile Barack Obama ha lanciato delle proposte per il futuro. The rules have changed. In a single generation, revolutions in technology have transformed the way we live, work and do business. Steel mills that once needed 1,000 workers can now do the same work with 100. Le regole sono cambiate, dice Barack Obama. Le regole della concorrenza non sono più quelle di 30 anni fa. Lavorare, vivere, fare affari oggi è molto diverso. Quando una volta ci volevano 1,000 lavoratori per poter far funzionare un impianto, una fabbrica, oggi ne bastano 100. And now it's our turn. We know what it takes to compete for the jobs and industries of our time. We need to out-innovate, out-educate and out-build the rest of the world. Ed ecco la sfida che Barack Obama ha lanciato ieri notte, la nuova sfida americana, una sfida, come ha detto, per il futuro. Ora, dice Barack Obama, tocca a noi. Dobbiamo battere il resto del mondo sull'innovazione, sulla pubblica istruzione, sulla costruzione di infrastrutture. È stato questo che vi ho fatto ascoltare il cuore del discorso del presidente Obama. Vi sto facendo ascoltare la prima parte del discorso, quella sicuramente più interessante e più ispirata. Nella seconda parte il discorso è un po' caduto. Il presidente ha cominciato a recitare una serie di tematiche, diciamo così, obbligate, ma in questa prima parte è rimasto molto focalizzato e soprattutto ha puntato sul senso dell'unità del paese. In apertura del discorso ha reso omaggio a Gabby Giffords, la deputata che fu colpita nella folle sparatoria di Tucson, Arizona, e partendo proprio da quella sparatoria il presidente ha detto: cerchiamo di recuperare quel senso di unità, quel senso di essere insieme, lavorare insieme. E come aspetto simbolico, ieri notte i deputati, i senatori democratici, repubblicani si sono mischiati proprio per dare l'idea di essere pronti a lavorare insieme. Ma il presidente ha avvertito: attenzione, essere seduti insieme oggi non basta, bisogna raggiungere degli accordi quando lavoreremo insieme domani. A half a century ago, when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik, we had no idea how we would beat them to the moon. 50 anni fa, ricorda Obama, i sovietici ci hanno battuto nella gara per lo spazio con il lancio dello Sputnik, con l'orbita dello Sputnik. Non avevamo alcuna idea di come potevamo arrivare alla Luna, dice Barack Obama. Eppure abbiamo avviato una serie di iniziative sul fronte dell'educazione e della ricerca per recuperare, e ci siamo riusciti. This is our generation's Sputnik moment. Questo, dice Obama, in uno dei passaggi chiave, è il momento Sputnik della nostra generazione. E dunque dà un respiro storico Obama, un respiro di svolta, devo dire abbastanza adeguato, perché sappiamo che la Cina nel giro di pochi anni supererà gli Stati Uniti dal punto di vista economico. Lo stesso presidente ha ricordato che proprio oggi la Cina ha già battuto gli Stati Uniti su alcuni fronti, ad esempio ha il supercomputer più veloce del mondo. Barack Obama ha costruito il suo rilancio su 5 pilastri che dovrebbero consentire all'America di vincere la sfida per il futuro. I 5 pilastri sono l'innovazione, soprattutto tecnologica, energetica, ambientale, l'educazione, la costruzione di infrastrutture che ancora mancano, la riforma, riformare il sistema di pubblica amministrazione, la responsabilità cioè dei parlamentari di trovare degli accordi. Il popolo americano ha parlato, ha detto Obama, ha chiesto a noi di governare insieme in queste ultime elezioni. Io dalla Casa Bianca dovrò lavorare con voi repubblicani alla Camera. I am proposing that starting this year we freeze annual domestic spending for the next 5 years. La prima sfida, un congelamento per 5 anni della spesa pubblica. Se lo si farà entro il 2015, dice Obama, il livello di spesa pubblica in relazione al PIL sarà inferiore a quello che si aveva negli anni di Eisenhower. Cutting the deficit by gutting our investments in innovation and education is like lightning an overloaded airplane by removing its engine. It may make you feel like you're flying high at first, but it won't take long before you feel the impact. Ma Obama ha posto un limite: ridurre la spesa tagliando investimenti nell'educazione o nella tecnologia sarebbe come alleggerire un aeroplano troppo pesante togliendogli un motore. All'inizio sembrerà più leggero, ma poi si schianterà al suolo. In the coming months, my administration will develop a proposal to merge, consolidate and reorganize the federal government in a way that best serves the goal of a more competitive America. I will submit that proposal to Congress for a vote and we will push to get it passed. E dunque la proposta finale di Obama, un consolidamento della pubblica amministrazione. In generale, la risposta dei repubblicani è stata piuttosto tiepida. Tonight, the president focused a lot of attention on our economy in general and on our deficit and debt in particular. He was right to do so. And some of his words were reassuring. As chairman of the House Budget Committee, I assure you that we want to work with the president to restrain federal spending. The Tea Party is a dynamic force for good in our national conversation, and it's an honor for me to speak with you. 2 years ago, when Barack Obama became our president, unemployment was 7.8%, and our national debt stood at what seemed like a staggering $10.6 trillion. Avete sentito Paul Ryan, il giovane capo della Commissione Bilancio alla Camera, e poi subito dopo Michelle Bachmann, una novità. Questa Bachmann è una deputata del Minnesota che ha parlato per conto dei Tea Parties, quindi una piccola spaccatura o comunque due posizioni all'interno del partito repubblicano. Entrambi hanno ripetuto lo stesso messaggio: se Obama vuole tagliare nella pubblica amministrazione, che cominci dalla sanità. Si riparte dunque all'attacco, si volta pagina. Da oggi riprenderà il dibattito politico, quello duro. Il presidente partirà già da oggi per il Wisconsin, dove presenterà il suo piano, un viaggio di 5 settimane in stati diversi, ogni settimana dedicata a uno dei 5 pilastri. Anche se l'ha negato nel discorso, secondo me Obama ha già in mente le elezioni per il 2012. Il discorso di ieri sera è stato anche un programma elettorale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Strokes hanno confermato indiscrezioni che avevamo raccontato nei giorni scorsi e hanno annunciato il nuovo album che si chiamerà Angles, degli Strokes, Heart in a Cage. Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.